canale 10? C'è Q canale 10, c'è qualcuno? Avanti 10, buonasera. Oh, ciao Giappa, ciao. Buonasera anche a te. La famiglia sarà qui. Mi ero tutta la sera in ascolto. Allora, facciamo una chiamata, vediamo se c'è qualcuno. Avanti Giappa. Sì, ciao Giulio, ascolta. Aspetta, devo spegnere un po' di roba. E com'era? Ti sento un po' strano, l'ho riconosciuto perché si sente molto la televisione. Mi ha detto che mi senti un po' rauco, così hai detto? Forse perché mi sono appena svegliato, perché ero svegliato e mi sono addormentato. Adesso mi sono svegliato, ma facciamo una chiamatina, vediamo un po'. No, dicevo che ti sentivo molto amplificato e sentivo forte la televisione nella tua stanza. Ah sì, infatti adesso ho abbassato il volume della televisione, infatti. Sì, ma è perché era così, forse non credo più vicino al microfono. E va bene, no, non sento nessuno. Io da questo avevo acceso, insomma, rimango in ascolto, qualcuno si affaccerà, si sentirà al baracchino, invece poi mi sono addormentato, mi sono svegliato adesso. E va bene. No, ci sarà Marco, ma sta mangiando. Ah no, ma io non l'ho sentito perché, tanto perché ero aumentato, poi avevo anche il volume della radio abbassato, per cui non lo potevo sentire. Va bene, dai, vuol dire, Marco ci sei? No, non ci deve essere, ho impegnato. Va bene, cosa ci vuoi fare? Cosa dire, sono ancora mezzo addormentato. Mi sto svegliando bene, dai. È probabile. Beh, tutto bene è andato, perché avanti ieri c'è stata una specie di tempesta, di fulmini. Sì, no, qui è tutto a posto. Ho staccato tutto e ovviamente, perché sennò magari, perché a me qualche annetto fa mi ha fregato, ma l'ho bruciato mezza stazione, per cui allora ho staccato tutto, ho staccato anche tutti i televisori, ho staccato tutto, ho lasciato solo il frigorifero attaccato, perché quando non è che non lo puoi staccare, è un televisore, basta, niente di più. Per il resto ho staccato tutto, perché tu mi dirai, ma sono un televisore, come mai? No, perché qui ne ho 5 io attaccati, siccome la casa dove abito io è a più livelli, no? E dunque ci sono 5 televisori tutti attivi, tutti installati, e allora li ho staccati tutti, antenna e anche cavo di alimentazione, tutto. Cosa non posso fare io, perché dove stare qualche ora staccando e poi non mi ricordo neanche come rimetterli ed è un disastro. Ma invece per i televisori ho risolto, perché ho comprato dei sistemi capacitativi, no? Quindi in realtà è come se avessi l'antenna staccata, passa il segnale, però non c'è collegamento elettrico, ecco. Non è se cada un fulmine, non riesco a passare, però sicuramente passa molto meno di come passerebbe un'antenna collegata in diretta. Ok, sì, ho capito. No, siccome qua è, dunque, saranno 3 anni fa, dai, l'inverno scorso, era sceso un fulmine qui in una casa vicino alla mia, distante da me più o meno 200 metri all'incirca, no? E beh, questo fulmine ha fatto danno a un sacco di gente qui a Ripunti, e non solamente a Ripunti, anche oltre a Ripunti ha fatto danno, e per cui allora a me mi avevo bruciato 4 cose, mi avevo bruciato intanto il router del computer, primo. Poi avevo bruciato un alimentatore switching poi mi avevano bruciato due ammalatini che avevo attaccati, perché erano tutti in contatto, erano, e più avevo il minaretto anche con dei 747 anche quando l'ho bruciato, erano cinque cose in tutto l'ho bruciato, per cui infatti da allora non ho più avuto un minaretto, anche se non lo utilizzavo quasi mai, però era tutto collegato, perché come ce l'ho io la stazione, io tiro su l'interruttore della corrente e si accende tutto qua, no? Nel quello che ho nel tavolino, per cui mi ha fregato, vabbè, pazienza, cosa si vuole fare, è andata così. E allora dalla volta stacco sempre tutto quando vedo che c'è una giornata brutta, così con il tuo uniforme eccetera, stacco tutto e non se ne parla più. L'unica, qua ce n'è stato uno solo veramente di quelli grossi. Quando arrivo da me è bruciato sempre qualcosa, mi ha bruciato un modulatore RCA della videosorveglianza. Infatti ogni tanto ne prendo 3-4 perché si bruciano sempre. Fortunatamente costano poco. Quindi si sa già, qualche anno fa aveva fatto esplodere il contattore e hanno sentito quello là, infatti mi hanno detto ci vediamo il prossimo anno, e meno male non si è bruciato, a quanto pare qua ne cambiamo parecchi. Ma a me non è successo niente, in realtà ci sono stati quei fulmini e basta, che hanno creato qualche problema. Cagliari è stata massacrata, è un bombardamento. Sì, guarda, sembra così, ripeto, la volta, quando appunto mi avevano rovinato quelle cose che ti ho elencato, in linea d'aria, la roba abito io, saranno 200 metri, è caduto questo fulmine, è caduto. Beh, all'ingresso, sai, quei collegamenti che ci sono, che avevano fatto per il gas, eccetera, lì addirittura ha fatto esplodere il tubo davanti alla porta, all'ingresso di questa casa, e si è incendiato. Infatti sono dovuti intervenire i pompieri, eccetera. Nella zona, ad esempio, dove abito io, a 50 metri da dove abito io, c'è una pasticceria, c'è la pasticceria Banali. Quello lo stesso, già hanno bruciato, il gruppo elettrogeno già bruciato. A 800 metri da dove abito io c'è un'officina di gommista, a quello gli ha bruciato il compressore. E poi tante altre persone, chi lo scaldabagno, e chi il frigorifero, e chi i televisori, insomma, tu pensa che la razza di potenza che ha questa accidentaccia del fulmine, e che non è caduto proprio sul luogo appunto dove è successo tutto questo danno. A casa di quello invece, a quello poi gli ha bruciato tutto completamente, dopo è caduto il fulmine. E fortunatamente non è successo niente a lui, perché mi ricordo che la sera lui era sul tetto, ma nemmeno 5 minuti era sceso, che si era rotto l'antenna della televisione. Beh, è caduto proprio sull'antenna della televisione di questo signore qua, ma gli ha bruciato tutto indistintamente quello che c'è per quanto riguarda elettrodomestici, eccetera, a casa. Se puoi immaginare, infatti, è stato un pochino sfortunato, dai. Quindi ha fatto tanto lavoro per niente. A Cagliari l'ha detto anche il telegiornale, c'è stato anche un problema su un aereo, era in atterraggio a Elmas, l'ha piccato il fulmine, fortunatamente non è successo niente, ma sai, in fase di atterraggio è sempre pericoloso, perché è la parte più delicata del volo, ma ha battuto il record, quindi non so se erano 15.000 fulmini, una cosa del genere, ma un bombardamento proprio. Quindi figuratevi quanti ne sono caduti e quanti danni hanno fatto. Sì, avevo letto sul giornale, c'era anche sul giornale, sul giornale c'era scritto roba di 14.000 fulmini, ma in pochissime ore. Poi non parliamo della pioggia che ha fatto, in certi punti 60 mm, in certi altri 40, eccetera, eccetera. Se che ti puoi immaginare, è proprio un alluvione in pratica. Quando succede così. Infatti sui giornali c'era scritto che in quelle poche ore ha fatto l'acqua di un intero mese. Cos'è l'altro mondo? Com'è questo clima? Come ha cambiato? Io mi ricordo negli anni passati, quando pioveva, ma arriva anche tutto il giorno, per dire, però non faceva danno come fa adesso. Adesso fa proprio danno nello senso della parola. Perché piove tutti in una volta, è chiaro che fa danno. Non parliamo poi delle campagne, tutto il 30 giugno se ne rovina, ti manda tutto all'aria, ti manda, per carità. Purtroppo non ci possiamo fare niente contro la natura, è così, e dobbiamo cercare solo di difenderci e basta. Peccato che molta gente non capisca quello che sta succedendo e continua a perseverare negli errori. Da noi l'orto ad esempio è sparito, appena piantato sta crescendo la roba, di colpo tutto secco, tutto, proprio vedi le cose tutte macchiate, tutto, sembra che le abbiano risucchiato l'acqua, quindi è una cosa micidiale veramente, no? Chi fa l'agricoltore di professione deve essere disperato, veramente è un lavoro che è micidiale, proprio in cui ci sono perdite e basta, ma con questo clima è come per coltivare banane come stanno facendo in Sicilia. Purtroppo sì, quasi sono danni grandi, perché uno magari lavora un intero anno, lavora e poi a un certo momento si vede distrutto nel giro di qualche ora, così solo perché c'è stato temporale. Ma ho sentito anche che appunto quando ieri c'è stato anche dei posti dove ha grandinato forte, anche qui vicino a Sassari. Aspetta, dov'è che mi avevo? Aussi mi sembra, o Attissi, non mi ricordo, se Aussi o Attissi. Dice che ha grandinato forte, ma certi chicchi di grandine quanto una noce. E dunque, quello fa danno veramente. Cazzo, non mi rimette che ormai una volta davanti alla mia falegnameria, anni fa, c'era questa macchina ed era tutta ammaccata, sai. E ti metto così incuriosito da come era questa macchina, ho chiesto alla padrona, era una donna, ho fatto sì, e dice, vedi, tutte queste ammaccature me le ha fatte, una grandinata che ha fatto, e dopo, qui non ha grandinata, a Brescia, io sono arrivata qui da Brescia, ha grandinato lì, ma erano, dice, dei chicchi grandi quanto una palla da golf. Si può immaginare, era tutta compatta questa macchina, cappotta, coppa, tutta compatta, con le bozze che aveva del tutto lo schiacciamento da questa cosa che c'è stato. Ma tu immagini, Giova? Sì, ma hanno detto anche quelli dell'assicurazione, no? Quando ho fatto l'assicurazione mi hanno detto se volevo anche specie di casco praticamente per gli eventi climatici, perché hanno detto dove sono loro, sul continente, le macchine danneggiate, i cruscotti, perché si assicurano anche la carrozzeria, e quando ci sono quei fenomeni ti giochi la macchina, perché solo di carrozzeria ti fa migliaia di euro di danni. Tu pensa che a seconda del tipo di macchina, un cruscotto che lo fa a beffa costa oltre 1.500 euro, quindi fatti il conto. sì, e beh certo, ti fa tanto, altro che... No, ma questa era talmente ammaccata in una maniera regolare, dappertutto, che sembrava fatta apposta da... È nata così la macchina, invece no, effettivamente c'era stata questa temporale, c'era stata a Brescia e gli aveva ridotto la macchina in quelle condizioni. Perché le ammaccature erano tutte uguali, non è a dire una parte di più, una parte di no, tutte uguali. Cosa era un altro mondo, ragazzi, ma guarda un po' che era questa distanza. Mi sto dicendo, sembrava fatta apposta da una fabbrica o da un carrozziere che potesse fare una cosa del genere. Purtroppo è stato così. Quando succede così, ma non lo so se l'assicurazione in questi casi qua ti può risarcire, non lo so, o se esiste una legge che possa risarcire quando succedono queste calamità così o già fa, niente ne sai. Sì, te l'ho detto poco fa, devi fare a casa, c'è niente da fare, specifica che tratti anche gli eventi naturali. È molto costoso, quindi il prezzo dell'assicurazione va alle stelle, però se già una o due volte si sono verificati questi eventi, se ti devi giocare la macchina, poi dipende anche dalla macchina che hai, è un problema. C'è però è a parte oltre l'RC normale, devi fare quest'altra assicurazione aggiuntiva per gli eventi climatici, che ripeto è molto molto cara, però in certe zone praticamente questi fenomeni ormai stanno diventando sempre più frequenti ed è un problema. Sì, è un problema, sì certo, secondo dove uno abita, dove vive, in quale città vive, non so, è costretto a farla quel tipo di assicurazione, perché se no la macchina tra le guide non è sempre dentro casa quando vedi che sta per piovere o fare qualcosa del genere, ma non tutti possono avere garage, per cui come si fa? È un danno grande, tu immagina se uno con una macchina molto costosa che è data di danno. Anche per le compagnie di assicurazione, a parte il discorso che loro si prendono il premio di assicurazione, però quando cominciano a fare danno così, non lo so che fine fa una società di assicurazione, va a finire che così fa, dice, secondo quante macchine ha assicurate, e come fa a pagarle tutte, non è possibile. No, già le paga, perché tanto lo stai pagando tu, perché certo non sono le assicurazioni quelle che oggi ci sono e domani no, sono solo grossi gruppi a livello europeo, addirittura mondiale, sono multinazionali, i problemi di pagare non ne hanno, però costano care perché si tratta di avere, è come se avessi un incidente praticamente, si distrugge la macchina e sai, quando inizia a avere 4-5 anni la macchina, anche se tenuta bene, però rifare la carrozzeria e quindi ci partono già 3-4 mila euro, vetri e tutto quello che c'è, insomma a un certo punto l'avverso è buono, la controlla molto. Sì, lo so, quando sei d'accordo, caro quanto vuoi, però tu immaginati quante macchine ci possono essere assicurate con un premio così, così alto, proprio per essere al riparo da questi incidenti così di clima. Però tu immaginate questo, quanto può pagare un'assicurazione? Supponiamo il caso che paghi anche 5.000 euro, ma se uno incomincia a vedersi 20.000 denunce tutte di colpo, come si fa a pagarli? Quell'assicurazione va a rotoli sicuramente, e come fa a pagarli? Non è possibile, io suppongo che, a meno che non ci sia qualche assicurazione mondiale, che ci si abbia un sistema dove appunto debbano essere risarciti anche loro poi, a un certo punto, non lo so, qualche cosa, qualche sistema l'avranno inventato o esisterà, non lo so la verità. No, l'assicurazione ci guadagna a prescindere, perché se no non lo farebbe. Fanno dei calcoli, ci sono dei calcoli di probabilità che sono, che insegnano anche per chi studia economia, ci sono delle previsioni, ci sono delle situazioni, aumenti di rischio, eccetera, e su quello si basano, ma ripeto, sono assicurazioni tutti a livello globale, generali e tante altre, e sono dei grossi gruppi che non hanno problemi a risarcire. E siccome, ripeto, sono problemi locali, anche perché non tutti sono assicurati fortunatamente con la stessa assicurazione, e comunque tu pagando ogni anno paghi, e fai che sia anche 200 euro più di assicurazione, quindi loro quei soldi, se non succede niente, ci hanno puliti, capito? Quindi il guadagno c'è sempre, non ti preoccupare, è tutto studiato. Poi se capitano piccoli eventi, perché sono molto ristretti tra l'altro, magari qua non succede niente, a 200 metri fa la grandinata e ti distrugge tutto. Ed è così, però conviene sempre per loro, sta tranquillo, gli unici che non ci perdono sono sempre l'assicurazione. Beh certo, per quanto già dovrebbe essere così, perché se no guai, non potrebbero reggere tutti i risarcimenti che magari vengono chiesti, certo. Vabbè, vediamo se Marco ha finito di pranzare. Marco, ci sei? Marco, non ci sei? Intanto lo so che ti ha l'ascolto, Marco, forse non hai voglia di parlare, ma intanto lo so che ti ha l'ascolto. Almeno questo io presumo che sia così. Oh Gianfra, cosa pensi, che stia facendo la contorna e basta? Ah, sta mangiando, questa sta facendo cosa, colazione, non fosse il pranzo. La colazione la fa alle 2 del mattino. E niente, si sta alzando talmente la preoccupazione che se continua così c'ho difficoltà anche ad ascoltare. Te lo immagini, quasi di essere no questo. Che cosa strana, è veramente, allucinante. No, io in questi giorni, quando ieri ero con Gianni, mi sembra, se ricordo bene. C'era Gianni non più luce, l'abbiamo scambiato due chiacchiere con lui, abbiamo scambiato. E propagazione ce n'era, oggi non ne sento, la verità, oggi non ne sento. Va bene che io l'antenna che io è troppo bassa, per cui non lo so quanto possa incidere sul fatto della propagazione, perché è bassa l'antenna. E se non è di una certa importanza, non è che ricevo molto. Poi tra l'altro, dove abito io sono, tu fai il conto, noi a Sassari siamo a 225 metri sopra il livello del mare, va bene? Beh, io dove abito io sono 114 metri, e che ti puoi immaginare sotto Sassari quanti metri sono? Una novantina di metri più o meno. Anche di più, forse 95, non lo so di preciso, ma siamo così. Per cui se io non tiro sull'antenna, che la dovrei tirare su di almeno 6 metri dove era prima, allora il discorso cambierebbe molto. Ma stando così com'è, con questa antenna così autocostruita, eccetera, non è che ho una grandissima ricezione, la verità. Salvo che quando ci sono delle persone che parlano da fuori, c'è buona propagazione, allora riesco anche a trasmettere tranquillamente, problemi non ce ne sono. Ecco come la situazione mia qua. Io ho sempre pensato che dovevo metterla nel punto più alto e poi non ci ho mai fatto da volo. Ecco qual è il discorso. Perché l'avevo messa lì per controllare le stazionali, essendo nel terrazzo, mi veniva bene in quel caso a lavorarci. E poi così è andata bene al buon momento e l'ho lasciata. È già 2 anni così, ho già fatto. Se va bene, con lasciarla così, io ho dovuto accendere anche il ventilatore. E qua siamo in due climi. Da una parte magari c'è freddo, qua da questa parte, che è dove il sole è calante, ovviamente ce n'è da sudare, quindi una cosa micidiale. Sì, la preparazione c'è, come io, figurati, ascolto, nonostante la zona non sia favorevole, sempre la Liguria, fare i servizi che ci sono lì. Non parliamo della Spagna o della Francia, perché mi arriva a fondo scala, sembra di essere in Corsica, quindi è un problema a volte. Sì, io mi ricordo tempo fa avevo sentito due persone che parlavano fra di loro col PNR, ed erano esattamente sul canale, aspetta, che canale era, se ricordo bene era un canale 28, una cosa del genere. Stavo spazzolando così e c'erano questi due che stavano parlando ed erano da fuori. Non so da dove fossero, però sicuramente penso dalla Liguria, perché negli anni passati, io parlo di almeno, non di questo che ho sentito adesso, ma prima, precedentemente, c'era un tipo che dalla Liguria puntava l'antenna sulla Sardegna, e noi allora, io sto parlando di roba di 9 o 10 anni fa, anni circa più o meno, e parlavamo con un LPD, con un semplice portatilino così, di quelle da 30 euro, e parlavamo tutti i giorni con lui, questo radioamatore della Liguria, che lui puntava la direttiva sulla Sardegna, praticamente era lui che ci acchiappava, non è che eravamo noi che arrivavamo là. Sì, parlavamo perché giustamente lui ci acchiappava con questa direttiva, poi chissà che cos'altro aveva, non lo so, ma parlavamo tutti indistintamente, tutti quelli di Sassari che avevano l'LPD, eravamo allora in LPD, e lui parlava con tutti tranquillamente. Scusa Giulio, sto cercando di capire cosa sono, perché sono, a volte arrivano con dei segnali da paura. Non ho capito se sono qua o se sono FM. Ho capito, possiamo provare l'FM, se per quello possiamo provare l'FM, adesso ci posso arrivare subito, perché sto andando a sintonia continua, non sono sul canalizzato, per cui basta schiacciare qua, possiamo anche provare per vedere se sono in FM. Qualcosina ho sentito, ma un tipo basso basso che non ho capito nemmeno che cosa dicesse. No, io non sento niente nemmeno in FM. Dove erano? Dove sei adesso? La M sei adesso? Sì, adesso sono passato la M. A me sembrano tedeschi, solo che è una preparazione anomala. Ci sono dei tratti in cui arrivano segnaloni da paura, poi cala di colpo, poi ritornano. È una cosa strana. Sì, no, io sentivo qualcosina, ma non capivo quello che diceva. Sì, probabilmente sono tedeschi, perché loro usano molto l'FM, usano, e i tedeschi usano molto l'FM, più di quanto usino la M. E va bene, lì dove sei tu, certo lì ricezione ce n'è in abbondanza, a quelle altitudini, io non credo. Anzi, secondo dove si trova uno vede male anche la televisione, perché c'è troppo segnale. Mi ricordo una volta avevo fatto un lavoro di falegnameria, no? a un dipendente dell'Enel, questo dipendente dell'Enel dice: io non riesco, dice, mai a vedere la televisione qua, perché siamo qui a Monte Oro, dice, no, c'è troppo segnale. Ma davvero? Siccome io ho fatto tanti anni l'antennista, prima facevo l'elettricista e l'antennista, poi avevo cambiato lavoro, perché dove lavoravo dovevo fallito, mio padre che era capoperaio in un'azienda, mi avevo portato con lui e poi sono diventato falegname, ma questo è tutto un altro discorso. fatto, perché detto, ce l'ho un pezzo di piattina, questo qui, sì che ce l'ho, un pezzo di piattina di quella di una volta che si usava con i chiodini isolanti, eccetera. Ma via un pezzo di piattina all'incirca lungo un metro più o meno. Mi ha detto, cosa fa? E via un pezzo di piattina, le faccio vedere che vede la televisione bene. Ho preso, gli ho fatto un dipolo, gli ho fatto, adesso non mi ricordo quanti centimetri e lì l'avevo fatto esattamente. E vedi anche un bastone con un pezzo di legno, facciamo una specie di croce, facciamo. E mi ha dato questo bastone, che era tolto da una scopa vecchia che aveva, e un pezzo di qua. E abbiamo attaccato questa piattina stesa sull'asse che di legno che mi aveva dato. Beh, lo sai che vedeva la televisione che era una meraviglia, chiara, con l'antenna sua non la vedeva perché c'era troppo segnale. Che te le immagini, Giofra? Sì, adesso sta rialzando di nuovo. Si aprono da soli, i telecomandi impazziscono, purtroppo è così. Guarda, a proposito dell'antenne, io ho sull'antenna che non ce n'è più praticamente, è tutta corrosa, tutte e due, e probabilmente sta ricevendo col filo adesso. E ieri, siccome ci stavo lavorando giù per un altro sistema, funzionava senza antenna, meglio che con l'antenna, strano, no? E niente, stamattina sono andato a chiedere un po', mi sono dovuto scappare perché mi stavo mettendo a ridere, sai quanto ti fanno pagare un'antenna, la classica configurazione, miscelatore da 4 soldi, antenna V, antenna U, tira la cifra. Lo so che appunto, come ti dicevo, essendoci troppo segnale, perlomeno una volta era così, oggi la frequenza di oggi non lo so, ma quando io facevo l'antennista era così, se non arrivavano almeno 55-60 decibel vedevi tutto nel vischio, e se superavi i 90 decibel allora andava lo stesso in saturazione, vedevi tutto squadrettato, insomma era un problema, era. Dunque oggi non lo so se magari oggi anche con meno segnale probabilmente poi la frequenza è diversa eccetera, non è più come una volta, non lo so come succede quando è necessario sia in entrata che in uscita anche. Se hai troppo segnale ti va in saturazione, la media frequenza e non capisci l'accidente, se lo capisci, oppure vedi diversi segnali, diversi canali. Ma io mi ricordo allora in quel periodo, abitavo nell'altra casa però non qua, io avevo l'antenna nella ringhiera della casa, allora ero in affitto, non ero in casa mia, ero in affitto, ero, no? E mi avevo installato questa antenna, mi avevo installato con una gaffa, con delle gaffe attaccate alla ringhiera, dunque il tubo, cioè il palo, lo potevo girare con la forza delle mani, perché l'avevo stretto, ma ce la potevo fare a girare. E io mi avevo preso il gusto, ho preso tanto tempo facendo queste cose, ma tanto, giravo appena e trovavo un segnale, facevo una tacchettina sia nella strappa che nel tubo e così via, insomma alla fine io a Sassari, punto dove abito adesso, dove abitavo in quella casa prima, qua non lo so se è possibile, riuscivo a prendere Tele Monte Carlo, quando a Sassari Tele Monte Carlo la gente se lo sognava che non esisteva proprio, nel senso che prima di arrivare la famosa antenna che diffusava, il famoso apparecchietto che aveva costruito Fusaro, eccetera, vedevo un sacco di TV private, anche la Rai 3 Toscana, quando qui a Sassari non esisteva Rai 3, c'era solo primo e secondo canale, e io vedevo tutti i canali privati tranquillamente, ma tutto santo giorno, l'onde riflesso, no, giravo l'antenna e orientavo, cioè quando prendevo direttamente dall'isola d'Elba il segnale che arrivava tranquillamente a casa e vedevo diverse, infatti seguivo molto l'hotel di Monte Carlo allora in quel periodo. Sì, è così. Ti stavo dicendo, stamattina sono andato a chiedere per un impianto i componenti, né, due antenne e un miscelatore. Se ti dico quanto ne vogliono, te ne scappa la risa. Quanto può costare oggi? Oggi non lo so. Cosa può costare? Diciamo, dal tecnico, quando vuole il tecnico, oppure quanto costa solo il materiale? Due antenne e un miscelatore, senza neanche il cavo, perché io li prendo a rotoli da 150 metri. Non lo so, quanto chiedo oggi, non so cosa dire. Io ormai sono rimasto all'era della pietra, per così dire. Tu pensa che allora si faceva, perché non esisteva il miscelatore, non esisteva niente allora, in quel periodo, e si faceva un balun, si faceva, perché era praticamente un spessore di filo stesso, messo in una certa maniera, e faceva da regolatore, faceva, e allora si riusciva a vedere. Ed era fatto di una certa lunghezza, perché se sbagliavi la lunghezza non vedevi bene, ma allora era possibile, oggi invece è tutto diverso. E quanto può costare un'antenna oggi? Ad esempio un'antenna oggi può costare 70 euro l'antenna, diciamo, grosso modo. Ammesso che ne prendi due, 70, una per l'UHF e l'altra quanto può costare? Una cinquantina di euro. E poi il miscelatore cosa può costare? Penso una ventina di euro, 25 euro, non lo so, io già fa cosa può costare oggi. 70 euro costano tutti e tre gli oggetti. Se li prendi fuori spendi molto ma molto di meno. Quindi guarda, io ti dico, ci sono miscelatori con appena due ingressi e un'uscita, costano anche 6-7 euro. Quindi fate il conto quanto costano le due antenne TV, che oramai te le tiriamo in testa. Sì, io so che un radiotecnico oggi per fare un impianto di antenna TV normale, non a parabola, ma prende intorno alle 2,70, 2,50, 2,70, compreso manodopera e tutto. Io so che oggi si fanno pagare così, che poi tanta gente se la fa anche da semi oggi l'impianto d'antenna, tanto oggi col segnale che c'è, tu pensa che io stacco la prolunga che va dal televisore alla presa di dove c'è la presa di corrente, no? A fianco c'è l'altra della presa TV, solo ad avvicinando, se è inserito dentro già vedo la televisione, ti puoi immaginare che razza di segnale che c'è oggi, prima invece era tutto pieno di amplificatori, un sacco di cose, era un casotto, prima tanto è vero, tante volte si avevano dei problemi perché magari amplificavi troppo, poi non parliamo quando esistevano tanti baracchini in giro, mamma mia, allora col fatto dell'amplificatore era proprio un disastro totale per la TV. Infatti, sì, no, da me, cioè se disgraziatamente ti viene l'idea di chiamare uno a farlo, probabilmente non te lo fa, ti dice chiami un'impresa qua, non è roba da locali, perché ci sono tanti di quei cavi, da paura, io ho proprio chilometri di cavi, perché solo, tu fate il conto, su un terreno da un ettaro, solo un impianto di videosorveglianza che va alimentato, poi ci sono i coassiali, ci sono i cavi di rete per i servizi video col BAM, infatti quando vado prendo direttamente 100 metri di uno, 100 metri dell'altro, davanti ieri a causa di quel fulmine ho dovuto prendere 150 metri di cavo coassiale, quindi vedi tu un po'. Seguiamoci. Un sacco di soldi anche sono, indubbiamente, e poi quel tipo di antenne soprattutto sono costosissime, non è come l'antenna semplice del baracchino, lo so, purtroppo è così. A me mi basta solo quella, perché io sono un baracchino, dunque io patente non ne ho, per cui non devo spendere troppi soldi in capo, assolutamente. L'ultimo che avevo preso era un H1000 25 metri, che avevo preso, che ce l'ho sempre, e infatti è quello che sto usando in questo momento, l'H1000. Quanto l'ha costato? Mi sembra 62 euro, una cosa del genere, 62,50, una cosa del genere, grosso modo, da posare, ma ce l'ho già 3 anni sarà. È un cavo eccezionale questo, questo non ha perdite, non ha niente, perché a me mi interessava quello, sai, abitando così vicino in un posto dove abitano altre famiglie eccetera, mi interessava che fosse schermato bene, perché tu mi insegni che l'interferenza esce soprattutto dal cavo, esce, per cui avrei potuto dare fastidio, penso io, anche alle antenne TV delle persone che abitano qui accanto a me eccetera, oppure al telefono o cose varie. Perciò con quel cavo lì è fermato al 100% l'H1000, perlomeno so che così, meglio del 213. Sì, no, l'H1000 io l'ho tutto tolto perché non è un cavo, insomma, è corrispondente per certi versi alla storia attuale, diciamo, di un cavo da consumo, ecco, così vengono chiamati. Io per l'ultima antenna che ho messo, che sono 30 metri di cavo, più, quindi salire 30 metri, più altri 20 di salita, sono 50 metri praticamente, una matassa di cavo, quello lì, mi avevano dato scontato a 300 euro, ed è subacqueo, è messo i paloni, garantito anche per essere sotterrato o messo in acqua, perché qua se no ti dura una settimana l'H1000. Mentre invece per il gruppo principale, quelle, le antenne grandi, proprio quelle che devono andare un po' più lontano, UHF e UHF, di lì direttamente c'è il Flex, che in rame costa, credo, era intorno ai 17 metri, sono 30-30, sono 60 metri, e costava praticamente 17 euro al metro. Caspita, un patrimonio ci vuole solo in cavi, lo so, se vuoi fare una certa attività a quei livelli ti devi attrezzare bene, diversamente non vai da nessuna parte. Purtroppo la passione è così. Lo so, il Cerflex, come si chiama, non mi ricordo com'è quel cavo lì. Sì, già lo conosco comunque. Sono cavi speciali, particolari, quindi sono straordinari, costosi, molto costosi, ma quelli vanno utilizzati appunto tutti per una stazione da radioamatore, perché non è certamente una cosa da CB. Io ripeto, prima avevo l'RG8 qua, però l'RG8 andava bene lo stesso, per la verità, però visto che lo sto cambiando, prendo qualcosina in più e prendo l'H1000, così è fermato ancora meglio, perché l'RG8 è fermato all'80%, questo invece è fermato al 100%, dunque attraverso la calza spuria non ce ne dovrebbero essere, per cui ho optato per questo. Ma tu che hai cavi speciali per quell'attività che devi fare, già lo credo, ci vuole un patrimonio di soldi, già lo credo. Ecco. Sì, è registrato. Sì, c'è anche il tuo costo. Era un'occasione che mi era capitata, perché gli avevano questi 60 metri erano avanzati da un lavoro che hanno fatto di una stazione telefonica, no? Di telefonia cellulare, di ponte radio, quindi quelli devono usare per forza col cavo, sennò già con 5 metri non ci arriva niente in antenna, quindi sono casi proprio un dramma. C'è un break, avanti. Sì, buonasera, dai, ciao Gianfranco e ciao Giulio, ma se vediamo da questa parte. Sto provando la radio, non so se sta uscendo bene. Sì, io ti sento bene, molto, insomma, molto forte come radio, dai, diciamo così. Avanti Giulio. Ok, ciao Massimiliano. Sì, stai uscendo discretamente, non benissimo, perlomeno per come mi ricordo io, la tua modulazione o Massimiliano. Comunque già sta uscendo, è forte lo stesso, già è comprensibile. Però non è quella radio bella pulita, secondo me, di sempre, o Massimiliano. Giulio, ho appena acceso, rendi conto, era forse qualche mese spento. Ah, ok, ho capito. Ho capito, allora pazientiamo qualche minuto per il tempo di accalorarsi un pochino. Vabbè, mi stavamo parlando un po' di cavi particolari che usano i radioamatori, come ad esempio come Gianfranco, eccetera. Stavo dicendo che ci vuole un patrimonio di soldi solo in cavi o Massimiliano. Cavi naturalmente particolari che mi stava tirando, è ovvio. A proposito, ma l'impedenza è quella che mi ha detto, cavi di linea telefonica, ma l'impedenza del cavo è sempre quella, o Gianfranco, sempre da 50 ohm? Sì, ho detto per ponti radio telefonici cellulari, quelli che lavorano su 800, 1008 e 2 giga e fischia, sono quelli lì, capito, che usano, perché ovviamente non devono avere perdite, solo i connettori, quelli che usano lì, sono connettori che manca un po' difficile da trovare, non so se costano intorno ai 30, dai 30 ai 40 euro l'uno, quindi sono tubi dell'acqua in pratica, da un quarto di pollice, e anche più grossi, poi dipende dall'infrastruttura, quanto è grande anche. Tutto lì. Cosa volevo dire? Non me lo ricordo. Vabbè. Riprendi Massimiliano, io direi che è forte, però non ti posso dire se è buono o cattivo, perché ogni tanto ne arrivano questi sprazzi di propagazione insomma, e disturbano parecchio. Sì, ciao Gianfranco, intanto ti saluto, scusa, non ti ho salutato prima. Non so, ho appena acceso, la verità si dica, adesso era un bel po' di tempo che era spenta, dai, quindi non so neanche come sta andando, guarda, ti dico che era forse un 3 mesi spenta questa radio. E adesso sente anche un rumore di innesco, un trottolo ogni tanto, forse è troppo alta come radio, magari un pochino diminuita vorrebbe. Riprendi Giulio, sì, corta già giù tutta questa ambaradam, però è solo per passione, anche se poi non lo usi mai perché non serve a niente, non c'è nessuno. Lo so, già fa, però il momento che c'è, ce l'hai, dunque puoi trasmettere. In quel caso lì, su quelle frequenze, essendo sei attrezzato, come mi state dicendo, non è che vai molto lontano, ovvero non vai da nessuna parte, perché ci sono tante di quelle perdite, se non hai cambi particolari, non è che c'è da stare allegri. Sì, ma ti vediamo, c'era un innesco, c'era, forse è troppo alto, non lo so, ma ce l'ha già detto Gianfranco. Vai, Massimiliano. Sì, ditemi voi, cosa devo fare? Cioè, la devo abbassare, cosa... non so, ditemi voi cosa devo fare, guarda così se va bene. Ma diciamo che si sente molto un rumore in fondo, forse qua. qualche vento, ma non lo so che cosa è. A livello di volume a me mi va bene anche, no problemi, no, non ne ho, forse ce l'ho regolato io bene anche il volume. La radio è chiara, sì, questo sì, però poc'anzi c'era qualche piccolo innesco, evidentemente o è ancora freddo quella radio, oppure c'è qualche problemino, non te lo so dire, o Massimiliano. Riprova, vai. Ma problemino non sono proprio d'accordo, infatti il conto che questa qui ne sta uscendo da quello che ha fatto la tua, quindi... Sì, perché io sento, cioè, ad esempio, nel momento che non stai modulando, sento un rumore di fondo molto forte, non lo so a cosa sia dovuto, forse hai il microfono troppo alto, non te lo so spiegare, o forse una ventola che hai vicino che si sente molto, non riesco a capirlo. Avanti, Piazza, tu cosa pensi? Scusa un attimo, lasciamo fare il foto. Beh, Giulio, c'è un alimentatore, quindi non lo so, guarda, ho diminuito leggermente il mic gain, 2-1. Prova a mettere solo la portante senza parlare, per un attimo, passi mediano, vediamo se si sente ugualmente, sì, si è andato in basso adesso che è abbassato, prova a vedere senza modulare. Sì, è fortissimo la ventola è fortissima, forse hai l'alimentatore vicino, non lo so, ma è fortissimo, si sente fortissima, no, perlomeno noi che siamo vicini io la sento molto molto forte, guarda, molto. Aspetta, mi ti do più o meno l'idea, vediamo un po', ma vicino questa ventola al microfono. Ecco. Sì, arrivo subito. Senti Massimiliano, non so se posso darti un'idea così. Io adesso ho avvicinato la ventola qua di raffreddamento, credo si può inventare, l'altro microfono, e non lo so come ti arriva, vai. Sì, sì, guarda, ho messo la mano sopra la ventola, guarda. Guarda se va bene adesso la radio. Così va benissimo, così va benissimo. Io ho voluto fare quella prova, siccome c'è un filo lunghetto qua, che lo tengo, è una ventola di quelli da coso, di computer, no, cioè, l'avevo attaccato un alimentatore di quelli da telefonini, da 12 volt, e per non farlo scaldare troppo la radio tante volte lo metto sopra, così intanto fastidio non me ne dà, c'è un interruttore, quando voglio lo stacco tramite l'interruttore. Per darti un'idea ho voluto allungare il filo, non so come lo sentivi. Confermo anch'io. Sì, sì, Giulio, sì, ha aumentato parecchio la ventola, sì. E non so dove mettermi questo alimentatore, Giulio. Vai, già fatto. Sì, confermo, anch'io quando ho allontanato l'orario era buona. Guarda Gianfra, ho messo la mano proprio dove c'è il coperchietto della ventola, guarda. Ora vedi un po' se la radio è buona. No. Non è buona perché c'è un innesco, probabilmente c'hai dei problemi di terra magari, di massa, magari come muovi si genera questo innesco. Quando non c'è, tipo poco fa è allontanato il tutto, andava più bene. Adesso però sta uscendo l'innesco, forse sta involontariamente facendo qualche punto di innesco con la mano. Cioè sto innescando la radio, non lo so. No, adesso no. Ah ok, va bene, ok, rifaccio la prova allora. Ok, così ho messo la mano sull'alimentatore dove c'è proprio la ventolina. Adesso è di meno, però ripeto, tieni presente che avendo anche dei rumori di propagazione io non posso essere preciso come Giulio, perché c'è un segnale intorno al 9 giù di lì, e quindi la propagazione è altissima qua. Niente, quindi se fosse più alto il segnale sarei molto più deciso. Va bene, dai, era giusto una prova, vi ringrazio, dai, vi ringrazio, è arrivata mia moglie, vado a vedere un po' cosa ha combinato. Ciao Gianfranco, ciao Giulio, grazie, giusto una prova, dai. Ok, buona serata e buona continuazione. Ciao Massimiliano, mi dici in che zona sei? In zona di Giulio. più o meno, qualche KM più giù. Ah, ho capito, ecco, sì, allora corrisponde, perché io sono coperto da Monte Oro lì, che mi dimentico sempre di andare con lo scavatore ad aprire un varco, una galleria, così non arrivo più forte. Ciao, buona serata, buon pranzo, riprendi Giulio. Ok, ciao Massimiliano, ciao. Sì, grazie per essere entrato comunque a me a salutare e a scambiare due chiacchiere. Sì, non so se poc'anzi hai sentito che ho gridato perché mi hanno chiamato da giù e ho dato una risposta qui a casa, cioè qua che mi hanno chiamato per la cena. Purtroppo ti devo lasciare, dai, sono le 8:15, appena passate, per cui ti devo ringraziare per questo. È stato un piacere e ci sentiamo magari prossimamente, dai. Io ascolto il filalino e dopodiché chiudo per la cena. Ciao Gioffra, grazie ancora, salutoni, alle prossime, ciao. Sì, ho detto buon pranzo, buona serata, buon pranzo. E buona serata, buona cena, casomai. Va bene, anch'io comunque chiudo perché a me mi avevano sollecitato, quindi anche io vado a cenare. Buona serata a Giulio, buona serata anche a chi sta ascoltando. Buon proseguimento di pranzo, questa volta sì, è giusto a Marco che sta mangiando a tutto spiano. Ciao, alle prossime! Ok, ciao.